Eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto della Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Siamo pronti per farvi compagnia per un'ora parlando di cinema, di film in sala. Sono molte le proposte nuove che arrivano nei nostri cinema in questo weekend, ma anche per parlare del grande evento che ormai è alle porte, perché nella notte italiana fra domenica e lunedì saranno assegnati gli Oscar 2009, o meglio gli Oscar relativi ai film usciti nel 2008. E allora la prima cosa che facciamo adesso, prima di passare poi all'attualità cinematografica in Italia, che tra l'altro annovera fra le novità anche un film come The Reader, che è uno di quelli più attesi in chiave Oscar, dicevo, la prima cosa che vogliamo fare è quella di cercare di fare più che un pronostico, una sorta di analisi a poche ore dall'assegnazione delle statuette, e lo facciamo con gli amici della rivista del settimanale Film TV. È in collegamento con noi Mauro Gervasini, che saluto. Ciao Mauro, innanzitutto un anno nel quale ci sono 13 nomination per Benjamin Button e 10 per The Millionaire. Tutto sembrerebbe far presagire una battaglia fra questi due film. In realtà quest'anno sono tanti gli outsider di qualità che potrebbero spezzettare il menù dell'assegnazione delle statuette. Prima di tutto, come premessa, direi che quest'anno non c'è il filmone che mette tutti d'accordo, mi sembrano tutti titoli di media qualità, senza eccellenze. Detto questo, io credo che potrebbe giocare qualche carta fondamentale l'outsider di turno, che quest'anno per esempio potrebbe essere Frost Nixon, che ha ricevuto meno candidature ma potrebbe vincere l'ambita statuetta, oppure anche Milk, che negli Stati Uniti ha avuto un notevolissimo riscontro. La cosa che spesso esalta gli amanti degli Oscar è la battaglia fra gli attori. Io non so, per una questione di sensazione, credo che vincerà Richard Jenkins per L'ospite inatteso, che non è il mio candidato. Io farei vincere Mickey Rourke, non perché sia più bravo degli altri, anzi forse dei cinque attori è quello che ha meno talento, però è anche l'unico davvero autentico, nel senso che Mickey Rourke è realmente il freak che si vede in The Wrestler e quindi merita la vittoria. Per quanto riguarda le attrici, qui c'è da dire una cosa, insomma, che poi è quei paradossi che sono tipici dei premi, soprattutto negli Stati Uniti, perché Kate Winslet è candidata come migliore attrice per The Reader e per lo stesso film era candidata come migliore attrice non protagonista ai Golden Globe, quindi si dovrebbero anche un po' mettere d'accordo. Secondo me lei è una grande attrice, bravissima, ma era più brava in Revolutionary Road. Se per gli attori l'outsider era Richard Jenkins, in questo caso è sicuramente Anne Hathaway in Rachel Getting Married, che è un film secondo me straordinario. Lei è un'attrice che ho sempre considerato meno di nulla, perché mi sembrava davvero un po' una sciacquetta, invece in questo film ha tirato fuori davvero una grinta inaspettata, inattesa, e forse per questo andrebbe premiata. Senti, regista che mi interessa di più di miglior film storicamente, perché insomma forse possiamo vedere la mano davvero di un regista anche in un film imperfetto. Allora io ti dico, il mio preferito, ricordiamoli, sono Danny Boyle, David Fincher per Il curioso caso di Benjamin Button, Ron Howard, Frost Nixon, Stephen Daldry per The Reader e Gus Van Sant per Milk. Secondo me di questi cinque quello che ha messo davvero la maggiore mano di regia, di cui si vedono le stigmate, è Danny Boyle. Cioè, mi sembra che The Millionaire ha sicuramente un'idea di cinema molto personale. Sono abbastanza d'accordo, ma a ribasso, nel senso che in realtà non ne sceglierei nessuno dei cinque. Secondo me i film migliori del 2008, che andavano premiati a scatola chiusa, ma credo sia il motivo per cui non partecipano in nessuna categoria se non per l'attrice, sono i due di Clint Eastwood, Changeling e Gran Torino, soprattutto Gran Torino. Detto questo, Clint Eastwood ovviamente non lo fanno partecipare, perché sennò un premio a questo punto bisognerebbe darglielo, un po' perché è Clint Eastwood, un po' perché è talmente bravo che non c'è storia per nessuno. No, io penso invece che questi registi siano stati fedeli, diciamo, all'aspettativa che si aveva nei loro confronti. Forse Danny Boyle, in questo hai ragione, è stato quello che si è concentrato di più in un rinnovamento più poetico che estetico del suo cinema, affrontando questo tipo di storie. Mauro, per chiudere con una provocazione, ma non tanto, pensa che per me un film che forse è uno davvero dei più bei film che abbiamo visto l'anno scorso, Arrivare dall'America, è Wall-E. E soprattutto i primi 40 minuti di Wall-E, che trovo davvero di una qualità cinematografica e poetica stupefacente. Concordo. Cosa si aspetta, per esempio, a trovare Wall-E candidato a miglior film in assoluto? Ah, su qua sfondi una porta aperta, cioè no, non credo che sia una follia, ma è un modo per moltiplicare i premi, insomma, per accontentare più persone. Sicuramente una scelta politica. Persino il Festival di Cannes, che è sempre stato, come tu ben sai, diciamo molto conservatore nella scelta dei film da mettere in concorso, addirittura ha messo Shrek a gareggiare per la Palma d'Oro. Incredibile che gli americani invece non abbiano ancora fatto questo passo. Grazie Mauro Gervasini di Film TV, buon lavoro con la vostra rivista e a risentirci qui sulla Rosa Purpurea. Grazie. E quindi appuntamento nella notte fra domenica e lunedì per gli Oscar, cominceranno intorno alle 2:30 ora italiana per finire poi verso le 6 del mattino con l'assegnazione degli Oscar principali. Dicevamo a questo punto, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i film in sala in questo fine settimana, quella che sono le novità. Come sempre cerchiamo innanzitutto di creare un'atmosfera proprio utilizzando alcuni passaggi audio dei film che arrivano nei nostri cinema. Ascoltiamo il nostro audio sommario. Forse qui lo troverai. Che cosa? Il libro che cerchi sempre. Inkheart, dita di polvere. La tua voce li ha fatti uscire dal libro. Ho notato che sei rimasta sconvolta perché ho avuto l'ardire di fidanzarmi prima di te. Ok, innanzitutto Daniel ha comprato l'anello a dicembre, chiaro? Quindi, in effetti, sono stata sei io patente. La prima. Sposta la data, Lib. No, sposta la tua, Emma. Se io non recito e faccio solo me stesso, sono un neorealista. Certamente. C'hai proprio la faccia. E la faccia è importante. Apparterranno a qualcuno? Se così fosse, sarebbero qui. Meglio qui che al canile. Quando ero giovane ho avuto una relazione. Ed era una sua amica. Una specie di amica. Le è sempre piaciuto che si leggesse per lei. Abbiamo tenuto per ultimo il trailer di The Reader, che, come dicevo, è sicuramente il film principale di questo weekend. Chissà come riuscirà ad aggredire la classifica del box office, perché sicuramente lo ritroveremo nella top 5 lunedì mattina a Oscar assegnati. La seconda parte della Rosa Purpurea si apre con il cinema italiano. Arriva nelle nostre sale Aspettando il Sole di Iago Panini, un cast davvero importante. Solo alcuni nomi: Raul Bova, Claudio Santamaria, Claudia Gerini, Vanessa Incontrada e ancora Gabriel Garco, Giuseppe Cederna, Rolando Ravello, Bebo Storti. È un film collettivo, sì, assolutamente, tutto ambientato in un albergo un po' dark. E allora andiamo ad ascoltare il racconto del film e l'intervista al regista Iago Panini dalla nostra Micaela Bellisario. Una notte qualunque, un albergo qualsiasi, un posto anonimo, senza tempo, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. 15 persone vivono le loro vite, ognuno rinchiuso nella propria stanza affittata per quella notte. Storie di dolore, storie di sesso, storie di delinquenza, storie di attesa e storie d'amore. Storie, insomma, che si sfiorano ma non si incontrano, divise dai muri delle stanze. A fare da guardia a questa umanità varia un portiere d'albergo che ha solo un'ossessione nella vita: le termiti. Le termiti sono gli animali più voraci del pianeta. Microscopici guerrieri con mandibole letali capaci di distruggere palazzi di diversi piani. Queste sono le termiti. La loro civiltà, vecchia di 200 milioni di anni, sebbene feroce e spesso ripugnante, è superiore a quella delle api. In questa notte qualunque arriva anche un gruppo di balordi alla ricerca di emozioni. Due di loro si piazzano nella hall, avviando dialoghi surreali con il portiere d'albergo. In una storia così manca solo il colpo di scena. Quale sarebbe questo colpo di scena? Il cadavere. If you wanna love her. C'è una situazione in ogni stanza, insomma. C'è quella dei delinquenti, reduci da una rapina. C'è quella della coppia alla ricerca di sensazioni sessuali estreme che termina con un omicidio surreale. C'è il disperato d'amore che mantiene il contatto con la donna della sua vita attraverso il telefono. E c'è pure una stanza dove si gira di nascosto un film porno. I due protagonisti scopriranno se stessi e si innamoreranno proprio in questa notte. Piaceva proprio quel supermercato. Osservare la gente, battere i prezzi alla cassa. Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte? If you want a partner, take... In questo caleidoscopio di situazioni in continua evoluzione accade un fatto inaspettato. Un balordo fa cadere la gabbia con le termiti. È la fine di tutto. I'm your man. Nel cast Raul Bova nella veste di innamorato disperato, Claudia Gerini amante estrema, Alessandro Tiberi balordo, Bebbo Storti regista guardone, Gabriel Garco delinquente ingenuo e Vanessa Incontrada romantica pornostar. Al regista Agopanini abbiamo chiesto come sia riuscito a metterli tutti quanti insieme. Devo dire che il grande lavoro di casting è stato fatto da Francesco Vedovati, che è il direttore casting di Aspettando il Sole e un sacco di altra roba, che si è innamorato della sceneggiatura e ha detto ma proviamo a contattare questi attori. Noi ovviamente non avevamo i soldi per pagarli con i loro cachet normali e devo dire che loro si sono dimostrati molto migliori di quello che la gente pensa che siano gli attori italiani. Ci hanno detto ma perché non farlo, è veramente un film divertente, proviamo a farlo. Abbiamo girato in un unico luogo in 5 settimane e ciascuno degli attori aveva a disposizione 4 giorni. Viviamo sull'orlo di un abisso, ma fingiamo di dimenticarlo, sembra voglia raccontare il film, un noir grottesco con tinte surreali, pieno di potenzialità, ma forse non completamente espresse. L'unico punto davvero debole sta infatti proprio nella mancata chiusura di tutte le storie presentate, che restano in un certo senso sospese. Peccato per il quarto d'ora finale, tirato via in fretta, così come l'ultima scena vera e propria, un flash che avrebbe meritato decisamente qualche immagine in più. La proposta italiana della settimana quindi è Aspettando il Sole di Agopanini. Noi a questo punto cominciamo a giocare con il nostro DVD game e come sempre cominciamo a farvi ascoltare la prima delle 3 tracce misteriose del film che dovrete indovinare. Motivo d'orgoglio per me aver mantenuto un certo distacco negli ultimi 18-19 mesi, quando siamo stati attaccati, ripresi e detestati. Non pensavo che queste cose potessero toccarmi nel profondo. Questa settimana un Blu-ray game, ve lo ricordo, ovvero stiamo mettendo in palio il Blu-ray di questo film, quindi insomma partecipate, ma sappiate che poi vi arriverà a casa il Blu-ray e quindi dovete avere l'apposito lettore per poterlo vedere. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete già indovinato di che film si tratta, altrimenti più tardi avremo ancora 2 possibilità. Ci sono persone che se leggono ad alta voce riescono a portare alla vita i personaggi fuori dai libri, nel mondo reale. Adesso dormi, tesoro. Dormi. Potrei provare a leggerle qualcosa. Ma è troppo piccola. No, perché? C'era una volta una bella bimbetta molto dolce. Solo a vederla le volevano tutti bene. Sua nonna specialmente, che le regalava qualunque cosa. E un giorno le regalò un cappuccetto di un bel velluto rosso. Che cos'era? Ovviamente dal cielo arriva un mantello rosso e la magia è completata. Quante volte lo abbiamo sognato, magari ad occhi aperti, davanti a un libro, se tutto quel che stiamo leggendo si avverasse, se ci trovassimo davvero dentro scenari magici del passato o del futuro? Ian Softley dà vita a queste domande nel colossal fantasy Inkheart. Protagonisti Brendan Fraser, ormai una certezza nei film per ragazzi, visto il recente Viaggio al centro della Terra, il passato Looney Tunes Back in Action e la saga della mummia, ma anche Helen Mirren e Paul Bettany. È la storia di Mo e Maggie, un padre e una figlia, appassionati lettori, in possesso di una facoltà magica. Se leggono ad alta voce, possono dare vita ai personaggi dei libri. Ma ogni volta che ciò accade, una persona reale scompare, risucchiata proprio in quelle pagine. È così che Mo ha perso la moglie e ha passato 9 anni cercando il libro in cui è entrata, appunto Inkheart. Quando Mo trova quel libro su una bancarella di provincia, parte per l'avventura più difficile, entrare in quel mondo, strappare la mata al cattivissimo Capricorn, che è niente meno che Andy Serkis, il Gollum del Signore degli Anelli, utilizzando come via d'uscita un tornado rievocato dalle pagine del Mago di Oz. C'è un ciclone in arrivo, Em. Mi occupo del bestiame. Zia Em interruppe il suo lavoro. Capì subito che il pericolo era imminente. Presto, Dorothy, corri in cantina. Prendiamola! Poi accadde una cosa strana. La casa roteò in aria 2 o 3 volte e cominciò a salire. A Dorothy sembrava di essere su una mongolfiera. Abbondantemente girato in Italia, precisamente in Liguria e parzialmente poi in studio in Inghilterra, Ink Art è tratto dal romanzo omonimo di Cornelia Funke e si iscrive nel genere che ha come capostipite La storia infinita e come recente apostolo Lemony Snicket. Con i libri e con gli effetti speciali, tutto è possibile. Sembra questa la controversa morale del film, visto che, se lette ad alta voce, quelle storie possono fare davvero molto male. Vede, la cosa interessante per me, a parte l'ovvio senso di colpa sessuale che avevo da giovane nella storia, è che non è cambiato niente. Io sono passati gli anni e avevo un analista sia allora che adesso. E sono a 6 analisti di distanza, ho 3 mogli al mio attivo e non riesco a mettere in ordine la mia vita amorosa. Io ancora mi piacciono le puttane. Cioè, ecco, io per me l'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... E a questo punto, in un programma di cinema al cinema come il nostro, non può mancare, non poteva mancare l'omaggio a un grande del cinema italiano che se n'è andato. Sì, perché anche i doppiatori possono essere grandi e possono fare grandi gli attori che doppiano, a cui prestano la voce. È stato il caso sicuramente di Oreste Lionello, morto a 81 anni nel corso di questa settimana dopo una lunga malattia, e donatore di voce niente meno che del mitico Woody Allen, come tutti sicuramente sapete. Lo stesso Woody Allen, commentando addolorato la scomparsa di Oreste Lionello, ha detto: ha fatto di me un attore migliore. E questa non è un modo di dire. Provate a immaginare i film di Woody Allen visti da noi qua in Italia senza quella incredibile voce che vi abbiamo appena fatto ascoltare, senza quel tono balbettante, un po' nasale, sicuramente un tono che riempiva di caratteristiche, di personalità quel personaggio. Sì, siamo convinti anche noi. Senza Oreste Lionello, nemmeno il grande Woody Allen sarebbe stato se stesso. E siccome show must go on, come si dice nel mondo dello spettacolo, noi andiamo avanti anche con la nostra trasmissione con una proposta leggera. Ancora una volta cinema per ragazzi, anzi in questo caso forse per ragazzini. Il film si intitola Hotel Bau, c'è di mezzo ovviamente la passione per i cani. Ascoltiamo Annalisa Misceo. Avere un cane, si sa, è il sogno di ogni bambino. Per Andy e suo fratello Bruce, avere un cane significa però soprattutto avere una famiglia. Rimasti orfani di entrambi i genitori, fratello e sorella passano da una famiglia affidataria all'altra e l'ultima in cui sono capitati, una coppia di rocker falliti che mette il cibo sotto chiave, di cani proprio non vuol sentir parlare. Abbiamo regole e le conoscete, niente cani in casa. Però Andy e Bruce un cane ce l'hanno già, è piccolo, sempre affamato e si chiama Venerdì. Con il suo cuscino personalizzato ha accompagnato di nascosto i due fratelli in tutte le loro peregrinazioni. Ma ora per lui non c'è più posto, deve trovare un'altra casa. Venerdì ha bisogno di un'altra casa. Pensi quello che penso io? Quello che pensano i due ragazzi è di lasciarlo nel posto che lo stesso Venerdì si è scelto, un vecchio hotel abbandonato in cui già vivono altri cani randagi. È da qui che comincia l'avventura di Andy e Bruce con i loro amici a quattro zampe. E da qui, aiutati da altri 3 ragazzi, parte la loro missione: salvare tutti i cani randagi della città. Questo è l'ultimo membro della famiglia. Possiamo tenerne un altro? Uno solo, volendo anche 10. Randagio avvistato fra San Andrew e Sesta. Bene, dai belli, vi salviamo. Qui il cagnolino. Così il vecchio hotel in disuso diventa il rifugio dei cuccioli scampati alla Calappia Cani. L'obiettivo dei ragazzi è riuscire a occuparsi delle loro bestiole anche quando loro non ci sono. Così il piccolo Bruce, inventore genio in erba, escogita ogni genere di macchinario che possa servire a rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti a quattro zampe. Dalla toilette doccia alla macchina servipranzo al simulatore di auto in corsa. Prendersi cura di loro non vuol dire solo dargli da mangiare. L'hai fatto tu? Sì, per accudirli anche quando non ci siamo. Grazie per aver preso il simulatore. Avanti i prossimi clienti. Tratto dal libro per ragazzi Hotel for Dogs di Lois Duncan, pubblicato nel 1971, Hotel Bau deve la sua forza ai suoi interpreti a quattro zampe e al registro narrativo a misura di bambino. È una favola che racconta un mondo di buoni sentimenti in cui neanche i cattivi sono veramente cattivi. Gli accalappia cani in fondo fanno il loro lavoro e non si vede alzare un dito sugli animali, e anche i genitori affidatari sono più imbranati che non malvagi come poteva essere la matrigna di Cenerentola. Forse a qualcuno potrà sembrare un po' melenso, ma quel qualcuno di sicuro avrà più di 15 anni. Perché non iniziare provando a dirmi la verità? Non l'ho mai detta a nessuno. Forse dovrebbe. Ancora ancora le verità non dette, il pesante fardello di cose da rifare o da non rifare che ognuno di noi, chi più chi meno, si porta dietro. Il cinema ancora una volta si mette davanti allo specchio e questa volta è lo specchio della storia. The Reader, il film di Stephen Daldry, tratto dal romanzo del tedesco Bernhard Schilling, affronta il tema del senso di colpa di una nazione, la Germania, per il suo passato nazista e di quello di tante persone normali che hanno avuto a che fare con altre persone altrettanto normali che avevano commesso crimini disumani. E questa è la tragedia. Michael è uno studente nella Berlino con le macerie della guerra ancora fumanti. Un mattino, andando a scuola, si sente male e si rifugia nell'androne di un palazzo. Lì viene soccorso da una donna che lo porta in casa e lo accudisce. È Anna, guida i tram e ha una grande passione per i libri, quelli degli altri. Anna non li legge, preferisce farseli leggere, con la voce di altre persone. Così quando la riconoscenza per il soccorso ricevuto si trasforma in attrazione sessuale, le giornate del giovane Michael e della matura Anna passano a letto fra sesso e letture. Non mi parli mai di quello che studi. Stiamo studiando un'opera teatrale, puoi leggerla se vuoi. Preferisco ascoltarla da te. Narrami di quell'uomo, musa, di quell'uomo dal multiforme ingegno che tanto tempo vagò. La scena si sposta, un balzo in avanti, siamo negli anni 60 con la contestazione. Michele è diventato uno studente universitario, il suo professore, uno strepitoso Bruno Ganz, lo porta coi suoi compagni ad assistere a un processo contro una mezza dozzina di caponaziste, accusate di avere provocato la morte di centinaia di ebrei in un rogo. È lì che la vita di Michele salta per aria, davanti all'evidenza della storia che lo mette di fronte al dilemma tra cuore e ragione. Esaminerò i casi uno ad uno. Mi chiamo Anna Schmitz. Lei è entrata nelle SS nel 1943? Cercavano delle sorveglianti. Ci sono passati difficili da dimenticare, ci sono vicende che ci segnano per tutta la vita. Il film è raccontato con gli occhi del Michael adulto, Ralph Fiennes, occhi spenti, rassegnati, che guardano indietro per andare avanti a costruire un futuro possibile, quello della figlia che Michael ha tenacemente protetto dopo il naufragio della sua famiglia. Ma la figura che segna e attraversa tutto il film è quella di Anna, interpretata da una Kate Winslet da Oscar, in grado di restituire tutto il dolore di una verità dilaniante e impossibile da pronunciare. Le società pensano di agire secondo una cosa chiamata morale, ma non è così. Ascoltiamo adesso le parole di Ralph Fiennes, il protagonista maschile del film, che ci racconta così il delicato passaggio dal libro alla pellicola. Yeah, I think the book was controversial. Il libro da cui è stato tratto il film affronta un tema controverso, certo, divide le persone, innesca dibattiti. Quando noi, intendo il regista e io, abbiamo iniziato le riprese, abbiamo subito realizzato che la nostra prospettiva non voleva essere la simpatia o meno per la storia d'amore, ma la voglia di aprire un dibattito sulla conoscenza e la condanna di certe vicende. Non è facile. Se condanni e basta, forse non capisci. E se capisci, non è detto che condanni. Il tema è intrigante. E forse in questo sta il senso profondo del film. Come dicevamo, un film sul senso di colpa di una nazione, un senso di colpa che ha permeato anche le riprese del film. Ancora Ralph Fiennes. I think that although a lot of the discussion about The Reader is about the, you know, the guilt of Germany or that generation after the war. Penso che tutte le discussioni scaturite dal film sui sensi di colpa della Germania o comunque della generazione nata dopo la guerra alla fine siano ancora attuali. Voglio dire, il mondo non è poi cambiato così tanto, di genocidi ce ne sono ancora. Penso all'est Europa, alla Cecenia. Le nazioni ancora adesso cercano di sopraffare le altre razze, fa parte del loro DNA. Insomma, non è cambiato molto da allora. Ancora adesso dobbiamo cercare di capire quale atteggiamento mantenere davanti a soprusi del genere. Of how we deal with the people next door who do these horrific things doesn't leave us. Abbiamo parlato di The Reader, la proposta cinematografica forse più importante, più intensa di questo fine settimana. Ora dedichiamoci alla seconda finestra sul DVD game, seconda traccia del film misterioso di oggi. Fai attualmente parte, in un primo momento hai mai fatto parte della lista dei gruppi, ma c'è molta pressione. Del procuratore generale. Non lo so. D'accordo, riflettiamo. Che dice in realtà? È qualcosa che va contro la libertà civile? Sto solo dichiarando una forma di la CBS che non sono comunista? Allora è Marlo lo ha firmato, sicuro. Sì, anche Fred Stanton. Beh, forse dovresti parlare con Marlo. Forse dovrei firmarlo. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi altrimenti ci sarà un'altra possibilità. E alleggeriamo sicuramente il clima cinematografico di questo weekend con una commedia, una guerra tra spose, The Bride Wars, il titolo originale da noi tradotto con La mia miglior nemica, l'ha visto per noi, Barbara Righini. Amiche per la pelle, Liv ed Emma sono state inseparabili fin dall'infanzia, hanno condiviso tutto e ora sono un avvocato di successo e una maestra dolce, sempre pronta ad aiutare gli altri. A quasi 30 anni attendono la fatidica proposta dai fidanzati e il caso vuole che entrambi si decidano nello stesso momento. Niente di fatto stasera, ma non importa, sono sicura che... Mi sono fidanzata! Lei mi ha chiesto di sposarlo! Due minuti fa! Sono fidanzata! Colore? Incolore. Taglio? A brillante. Inclusione? Quasi invisibili. Un carattere? Quasi. Appena sotto, forse. Per Emma e Liv è perfetto, faranno l'una la damigella dell'altra e potranno organizzare le nozze assieme. Peccato che entrambe vogliono pronunciare il tanto atteso sì nell'esclusivo Hotel Plaza di New York. Sposarsi a giugno al Plaza. Sta dicendo che non c'è nessuna possibilità. Se vi foste rivolte a un'altra, neanche una. Ma voi siete venute da me. Chiamatemi bacchetta magica se volete. Sembra tutto ok dunque, la cosa è sistemata, se non fosse che un disguido fa sì che i matrimoni siano entrambi nella stessa data. Questo non si può fare, costringerebbe gli amici e i parenti a scegliere. Insomma, Emma o Liv, una delle due deve scegliere, allora le migliori amiche si lanciano in una guerra senza esclusione di colpi, una contro l'altra. Sei carino a mandarmi tutti quei dolcetti, ma io... Ma quali dolcetti? Come? I dolcetti? I cioccolatini ripieni? I cioccolatini? Il cesto dei dolci del golosone? Il club mondiale del burro? Oh, tesoro, non te li ho mandati io. Oh mio Dio, Emma! Sta cercando di farmi ingrassare così non potrò indossare il vestito! Ti rendi conto? I'm gonna rain on your parade. Già, il vestito da sposa, l'abito più agognato da ogni donna. Anne Hathaway interpreta Emma e lei come lo immagina il suo abito? The most beautiful wedding dress I've ever seen was Gwen Stefani's, designed by John Galliano. Il vestito da sposa più bello che abbia mai visto era quello di Gwen Stefani, disegnato da John Galliano. Non so cosa sceglierei, non so, sarebbero solo congetture, magari mi sposerei in bikini. Ma fatemi pensare, forse indosserei qualche cosa di Christian Lacroix, haute couture, o forse Vivian Westwood, o magari proprio Galliano. Insomma, solitamente mi vesto per il tappeto rosso, ma in questo caso sarebbe diverso e credo che le loro creazioni mi corrispondano. La mia migliore nemica è una commedia che strappa qualche sorriso, affronta il tema dell'amicizia femminile e soprattutto del sogno, tutto da ragazze, di un matrimonio da favola. Le gag però sono abbastanza scontate e le situazioni studiate a tavolino. Brave entrambe le protagoniste, Kate Hudson e Anne Hathaway, il loro essere contrapposte anche fisicamente funziona a meraviglia. Tutto sommato La mia migliore nemica è un film godibile per una serata senza troppe pretese. Ciò che importa è non entrare al cinema aspettando di vedere qualche cosa di nuovo. Ed eccoci arrivati al nostro immancabile appuntamento con Trailer USA, la vetrina sulle proposte cinematografiche americane. Ritroviamo la nostra Michaela Bellisario, che avevamo ascoltato poco fa raccontarci Aspettando il sole. Ben ritrovata, Michaela. Ciao Franco, un saluto anche agli ascoltatori. Allora, il film di cui vogliamo parlare oggi è attualmente terzo nella classifica americana, capeggiata tra l'altro, ve lo diciamo per la cronaca, da He's Just Not That Into You, il film di cui vi avevamo raccontato la scorsa settimana. Ebbene, dicevamo, il film di oggi è Coraline. Noi lo vedremo a luglio ed è un film tratto da un romanzo di Neil Gaiman, lo stesso scrittore di Stardust. Il film è animato, tridimensionale, palpabile, in stile Nightmare Before Christmas. Le atmosfere sono, per intenderci, simili a quelle a cui ci ha abituato Tim Burton. Il regista però è Henry Selick, che è la voce della protagonista e della piccola star Dakota Fanning. Ecco, Michaela, raccontaci qualcosa della trama. Allora, sì, Coraline è una moderna favola dark, piena di humor e con tante diverse pennellate horror, quindi se amate Tim Burton, come hai detto prima Franco, è effettivamente il film giusto per voi. E la storia di Coraline, una ragazza di 11 anni, un po' ribelle, in lotta con i genitori che peraltro lavorano molto e quindi non possono starle dietro, che un giorno scopre per caso un passaggio segreto nella sua casa. Questo passaggio la introduce in un mondo alternativo, simile formalmente per molti versi al nostro, insomma quell'umano, ma decisamente diverso e più eccitante per altri. Ora sentiamo Coraline meravigliarsi quindi davanti alle bellezze di questo mondo alternativo. You do like it here, don't you, Coraline? You could stay here forever. There's one tiny little thing we need to do. Ecco, presto però Coraline scopre che tutto non è come appare, ecco, un po' anche un film che sottolinea l'uscita dall'infanzia, ingenua, bella, nell'adolescenza, appunto un po' inquieta. Ora allora vi facciamo ascoltare un altro passo in cui Coraline conosce la sua nuova madre, una donna che a prima vista appare come dolce, straordinaria, ma che vista da più vicino ha una particolarità decisamente horror, cioè agli occhi a forma di bottone. A quel punto Coraline capisce che qualcosa non va e che deve fuggire. Mom, you're just in time for supper, dear. You're not my mother. My mother doesn't have buttons. Do you like them? I'm your other mother, silly. Fuga e ritorno in un mondo parallelo, insomma, Michaela. Peraltro le somiglianze con Nightmare Before Christmas di Tim Burton sono più d'una. Un film, pensate, per cui sono stati costruiti 150 mini set per pupazzi modellati a mano, alti al massimo 25 centimetri, e il risultato è molto realistico. Salutiamo Michaela Bellisario. Sì, ciao Franco, alla prossima settimana, un saluto agli ascoltatori. Eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea. Siamo nella zona dedicata tradizionalmente alle proposte in DVD. Oggi con la soluzione del quiz della settimana scorsa avremo anche un grande ospite come Alan Barillaro, animatore giovanissimo di origini italiane ma trapiantato in America, fra poco capirete anche per quale film. Andiamo con ordine, cominciamo con il giocare con la terza e ultima traccia del DVD game di questa settimana. Qualunque cosa accada che abbia a che vedere con la relazione esistente tra l'individuo e lo Stato sarà una decisione solo nostra. E noi crediamo, Fred Friendly e io, che questo sia un argomento di dibattito infinito. Buonanotte e buona fortuna. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica, come di consueto, per provare a indovinare quale film vi abbiamo fatto ascoltare durante questa trasmissione e provare anche a vincere il Blu-ray di questo film, quindi un Blu-ray game per questa settimana. E noi a questo punto accogliamo qui alla Rosa Purpurea il nostro, ma anche vostro, Claudio Pofi, che come sempre ci aiuta a districarci fra le uscite in DVD. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, abbiamo fatto sentire l'ultima traccia del film misterioso di oggi, facciamo invece risentire un passaggio fra le tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Auto, la terra è incredibile! Queste sono fattorie. Gli umani piantano semi nel terreno, ci versano sopra dell'acqua e poi cresce il cibo, tipo pizza. Buonanotte, comandante. Si trattava di Wall-E, il film, io lo definisco, come ho detto in apertura di trasmissione, anche il capolavoro della Disney, uno dei più bei film usciti in assoluto quest'anno fra live action e animazione, il film che racconta la storia di questo robot abbandonato sulla Terra ormai sterile da 700 anni e che improvvisamente ritrova una traccia di vita e l'amore. È davvero un film straordinario, lo hanno indovinato in molti, ma lo hanno vinto perché sono stati più rapidi, più veloci, Riccardo Canil di Noale in provincia di Venezia e Angela Lasagna di Somma Lombardo, provincia di Varese. Allora Claudio, il lavoro Disney sulla DVD di solito non delude. No, assolutamente, altrettanto ineccepibile, si riconferma naturalmente ai vertici della categoria. Ricordiamo, questo titolo è offerto DVD singolo, DVD doppio e un'edizione addirittura in alta definizione Blu-ray sempre a 2 dischi. Sono veramente tantissimi i contenuti extra per approfondire l'incredibile lavorazione dell'opera, sia per la parte grafica, la parte di animazione, la parte di creazione della sceneggiatura. Sono disponibili tracce sia in italiano che in inglese in Dolby Digital Multicanale, ovviamente tracce anche audio ad alta risoluzione per il Blu-ray. Tra l'altro nell'edizione in alta definizione e così come nella 2 dischi DVD è possibile approfondire la storia della Pixar. Claudio, hai parlato di Pixar e proprio della famiglia Pixar. È parte Alan Barillaro, giovane e di origini italiane, abruzzese la famiglia della mamma, calabrese quella del padre, ma lui è nato e vissuto in America ed è il supervising animator proprio della Pixar, cioè il supervisore dell'animazione, insomma uno che conta quando bisogna dare la parola definitiva, il visto si stampi, diciamo così, a un film d'animazione che richiede 2-3 anni di lavoro, quindi un'opera ciclopica. Allora, Alan Barillaro, lo abbiamo avvicinato, è stato molto molto disponibile e cortese, lo abbiamo anche intervistato e gli abbiamo chiesto innanzitutto cosa significhi per un film l'uscita in DVD, una sorta di seconda vita? Sì, è una grande esperienza vedere un film diventare un DVD, perché è anche un'opportunità per mostrare al pubblico come abbiamo fatto il film. Il processo di creazione di un film è una cosa molto vasta e poi si può godere di nuovo della visione di un film a casa. È come rivedere un quadro che ti è piaciuto e capire come gli schizzi che il pittore ha fatto siano diventati un quadro. È una cosa molto interessante. I primi 40 minuti di Wall-E sono degni di un classico del cinema muto. Davvero straordinaria la poesia e anche la tensione emotiva che si respira pur senza una parola. Come avete ottenuto, Alan, questa atmosfera magica? Oh, it was blood and sweat. We thought it was easy, but it actually was extremely difficult. Beh, sangue e sudore. Sembra facile, ma è estremamente difficile. Abbiamo studiato tutti i maestri del cinema muto, imparato dai personaggi muti della pantomima. Ma davvero la recitazione doveva essere molto più precisa. Per la maggior parte del tempo ci siamo comportati come se camminassimo sul ghiaccio sottile. L'equilibrio fra i reparti è stato perfetto, non solo per l'animazione, ma per le luci, i colori, le riprese. Tutti hanno giocato alla grande. To have the scene play properly. E ad Alan Barillaro abbiamo chiesto anche come lo staff di Wall-E abbia lavorato alle scenografie digitali. Per esempio la casa di Wall-E, che ha visto il film sa a cosa mi riferisco, sembra una sorta di ventre della balena di Pinocchio. Come siete riusciti a creare questi ambienti? That is definitely the art department, and there's some great arts that I'm glad you asked that question, they would love to answer. Questo è certamente merito del dipartimento artistico. Sono grandi artisti, mi piacerebbe che fosse qualcuno di loro a risponderti. Hanno passato settimane e settimane a disegnare le scene ed Andrew Stanton, il regista, ha deciso cosa ci doveva essere in primo piano, dove mettere un dato oggetto, come Wall-E vede il mondo, cosa trova interessante. È tutto quello che fa di lui, insomma, un personaggio unico. E questo era Alan Barillaro. Claudio Poffi, torniamo da te, davvero un protagonista straordinario dell'animazione. Noi però dobbiamo segnalare altre due uscite, facendo un salto indietro nel tempo. Andiamo a un classico con il mitico Louis de Funès, Tre uomini in fuga. Ascoltiamo la clip. If I go to the Turkish bus, I risk ho enormemente. Yes. But if you go to out, Slayers, i German, i tedeschi che sono giù, la chiapperanno e io rischio ancora di più. Yes. Do you promise me che if I porte qui il big mustachi, lei se ne va con lui? Yes. Definitivamente. Yes. Yes, anch'io. E se torniamo al 1966, quando si racconta di questa avventura durante l'ultima guerra, questo aereo inglese che sta bombardando Parigi viene abbattuto e 3 componenti dell'equipaggio riescono a salvarsi. Uno cade sul tetto del teatro dell'opera, uno atterra a pochi passi da un comando tedesco, il terzo addirittura nel giardino zoologico. Ci sarà un celebre direttore d'orchestra, un imbianchino e una burattinaia che le aiuteranno a fuggire dalla Francia occupata dai tedeschi. È uno dei classici con il mitico De Funès, che viene riproposto da San Paolo Audiovisivi in un DVD comunque di ottima qualità. È disponibile, oltre alla traccia originale francese, anche l'originale italiana con il doppiaggio italiano dell'epoca. Come extra sono disponibili unicamente il trailer originale e una carrellata di locandine dal mondo del film. E facendo un nuovo salto nel futuro, la fantascienza questa volta in live action, incontriamo Babylon AD. Ascoltiamo la clip. Siamo uguali, tu ed io. Non siamo uguali. Che cosa vuoi? Uno con le palle. Non mi occupo più di profughi ormai, usa il tuo elicottero. I confini sono roba tua. Solo da questa parte. Cos'è, una consegna che va all'estero? Una ragazza deve arrivare in America entro 6 giorni. Distribuisce Mondo Home Entertainment questo film di fantascienza, questo action thriller di fantascienza, che ci racconta del pianeta Terra dilaniato da varie guerre in fase di distruzione, di autodistruzione. C'è questo mercenario, che è il personaggio interpretato da Vin Diesel, che accetta una missione quasi suicida, cioè dovrà scortare dalla Russia verso la città di New York una misteriosa giovane che possiede dei poteri straordinari. Il film è molto interessante e purtroppo delude nell'epilogo. Il DVD è veramente di ottima qualità, sia sotto profilo video che audio. Abbiamo tra l'altro per l'audio, oltre alle consuete tracce Dolby Digital multicanale in italiano e in inglese, anche un'italiana in DTS tutta da ascoltare. Numerosi gli approfondimenti sia per quanto riguarda la realizzazione della sceneggiatura, la creazione della sceneggiatura, che dei numerosissimi effetti speciali. Ricordo che Mondo ha messo a disposizione, oltre che l'edizione singola e doppio DVD, anche un'edizione disco Blu-ray alta definizione. Grazie allora Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana con il nostro spazio dedicato ai DVD. A presto, un saluto. E a questo punto a noi non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Ricordo sempre gli orari: il sabato alle 18, la domenica alle 9 del mattino, poi altre repliche notturne che so essere molto seguite da molti nostri ascoltatori che addirittura ci scrivono per giocare alle 3 del mattino. Beh, insomma, tentateci sempre, perché può anche darsi che ancora nessuno abbia indovinato il nostro quiz. Settimana prossima ovviamente daremo una sorta di sguardo retrospettivo a come sono andati a finire gli Oscar 2009 e parleremo come sempre di tutte le novità al cinema. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.